Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo ancora della disoccupazione, o meglio della bassa occupazione, ma toccando una categoria di lavoratori di cui spesso non ci occupiamo, nel senso che parliamo giustamente, a mio avviso, molto dei lavoratori dell'industria, anche perché lì insomma le fuoriuscite sono tante, 200.000 solo nell'ultimo trimestre registrato dall'Istat, e parliamo anche chiaramente di altre categorie che rischiano di essere espulse o sono in difficoltà. Non ci occupiamo così tanto, quindi è anche una missione, della categoria dei professionisti. Perché? Perché c'è l'idea che il professionista sia per forza di cose ricco, gaudente, e quindi non abbia grossi problemi. In realtà dei, poniamo, 136.000 avvocati italiani, molti non guadagnano le cifre stratosferiche che uno immagina. Questo vale anche per tante altre categorie, penso agli architetti e altre categorie del mondo dei servizi, i quali, e ne lo affronteremo subito in apertura come tema, oltre che non navigare nell'oro e rischiare un'espulsione dal mercato del lavoro in contrazione, non hanno nemmeno, e questo va detto oggettivamente, gli strumenti di sostegno, chiamasi cassa integrazione straordinaria, oltre che quella ordinaria, e anche le deroghe alla cassa integrazione che valgono per alcune piccole imprese, per gli artigiani, ebbene, non hanno alcun strumento di sostegno. Lo vogliamo toccare come tema perché oggettivamente sono arrivati anche molti SMS che facevano notare: attenzione, gli avvocati non sono solo i miliardari, gli architetti non sono solo le grandi firme delle archistar presenti in giro per il mondo. Parleremo anche dello scudo fiscale, perché oggi scontro in Parlamento, il Presidente della Repubblica ha detto che valuterà la legge con la modifica approvata, il PD ha lasciato l'aula, vi daremo aggiornamento anche su questo, fermo restando che di scudo fiscale stiamo parlando da fine settimana scorsa, per cui tenderei anche a dare solo l'ultima cronaca e gli ultimi aggiornamenti. Ancora, per quello che riguarda i temi, continuerà il nostro viaggio con gli imprenditori che, pur avendo grandi marchi e grandi volumi a livello di fatturato, sono nella stessa barca con i piccoli imprenditori. Ieri abbiamo ascoltato l'appello disperato di un piccolo imprenditore milanese, vi daremo anche un aggiornamento su questo, perché ha ricevuto molte offerte ma nessun euro, per cui resta nella sua situazione, molti attestati di solidarietà ma pochi soldi. Ancora sui mercati finanziari, il Milano guadagna lo 0,7 ed è migliore decisamente di tutto il resto d'Europa la piazza italiana. Parigi meno 0,20, Francoforte meno 0,4, Londra meno 0,15, l'America perde lo 0,2. Perché Milano guadagna? Perché è in recupero soprattutto Unicredit, più 3,15% a 2,54 euro dopo il calo forte di ieri. Come dire, abbiamo scherzato sui timori di un aumento di capitale. Bene anche Mediolanum, più 3,4, Ubibanca più 2,8, come Intesa San Paolo, forte oggi tutti i bancari, Parmalat più 2,2, Alleanza più 1,1, come Generali lo 0,90 lo guadagna Fondiaria, lo 0,80% e rialzo di Unipol. Fronte opposto, Autogrill meno 1,80, Impregilo meno 1,70, Pirelli meno 1,6, 1,5% il calo di Fiat, l'1,3% quello di Luxottica e di Tenaris e di Geox, CIR meno 1,1% come Campari e Mondadori. Dimenticavo, un altro tema che tratteremo riguarda e riguarderà la preparazione, diciamo, al G20 di Pittsburgh, che inizia domani, che dovrebbe, nelle intenzioni dei vari paesi che vi parteciperanno, rappresentare una specie di nuovo accordo. C'è chi dice Bretton Woods, ma insomma un nuovo accordo per ridefinire le regole sulla finanza mondiale, le autorità che devono vigilare su queste regole e eventualmente anche sanzionare chi queste regole le rompesse. Dico subito che non c'è accordo, che l'Europa ha una posizione diversa da quella degli Stati Uniti, che l'Europa preme molto sui bonus, gli Stati Uniti in maniera diversa, che non c'è accordo su quanto invasive debbano essere le autorità e soprattutto se creare un'autorità unica di controllo, oppure avere autorità nazionali che dialoghino però in maniera più robusta e più consistente di quanto non fatto finora. È infatti chiaro a tutti che la crisi è stata anche una crisi del controllo delle autorità di vigilanza su quello che queste banche stavano facendo e sui flussi finanziari, sulla loro direzione e sul loro utilizzo. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Ancora restiamo sul tema della crisi. Volete il petrolio, avete ragione, ve lo diamo subito come variazione percentuale. Perde il 3,3% sotto i $70 al barile, a $69,4. Dicevamo sul tema del G20, Barack Obama poco fa ha detto uscirà dal vertice di Pittsburgh domani, dopodomani, il tentativo di lavorare assieme con le più grandi economie per disegnare una struttura per la crescita che possa essere equilibrata e sostenibile. Questo è l'obiettivo, una crescita equilibrata e sostenibile. E Timothy Geithner, invece, il segretario del Tesoro americano, ha detto il Congresso deve approvare il più rapidamente possibile il pacchetto di misure anticrisi volte proprio a riformare il sistema di vigilanza, quindi la Consob americana, che si chiama SEC, il sistema di vigilanza sul settore finanziario in America. Anche questa settimana il Fondo Monetario ci regala la sua perla di saggezza, non se ne abbia Dominique Strauss-Kahn, però insomma oggi il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale dice: vediamo una luce in fondo al tunnel, abbiamo evitato il disastro, ma questo non vuol dire che la crisi è finita. Eh sì, caro Dominique Strauss-Kahn, oggi il nostro gufo è dedicato a lei, perché l'avevamo capito, ma che cosa serve a dire che è presto per cantare vittoria senza indicare perché, come, dove, con che misure, in che intensità? Voglio dire, siamo tutti capaci, soprattutto quando andiamo in certi luoghi di ristorazione, per esempio i bar, a dire che la crisi non è ancora finita, che è presto per cantare vittoria, che si vede la luce in fondo al tunnel. E poi un'altra perla di saggezza, così concludo col Fondo Monetario: la disoccupazione potrebbe continuare ad aumentare il prossimo anno e questo potrebbe causare un rischio sociale. Anche su questo, diciamo, con un po' di sforzo ci arrivavamo anche noi. Buono il dato invece oggi in Europa, per tornare alle cose un po' più così concrete: il dato sugli ordinativi all'industria nell'area europea 16 più 2,6%, l'Italia è il paese in cui gli ordinativi industriali sono cresciuti di più nel mese di luglio, più 3,6%. Poi bisogna capire se questo è dovuto a un esaurirsi delle scorte di magazzino, quindi rimpiazzate, oppure a una tendenza vera e propria di ripresa del ciclo economico. Comunque ben venga un più 3,6% negli ordinativi industriali. Nel frattempo l'OCSE fa notare che l'Italia è il paese che ha speso meno per sostenere la sua struttura finanziaria, il settore finanziario. Meno di noi hanno speso solo la Turchia, l'Australia e la Polonia, perché altri paesi hanno speso cifre doppie o triple. Devo dire che secondo me non è una brutta notizia, cioè, se abbiamo speso meno per sostenere il settore finanziario, solo il 3,8% del PIL, di cui l'1,3% dedicato a iniezioni di capitale vere e proprie, il 2,5% che arriva da operazioni da swap di titoli effettuate dalla Banca d'Italia, vuol dire che il nostro sistema finanziario aveva meno bisogno di essere sostenuto rispetto ad altri. Ancora sul rapporto banca-impresa ne parleremo più avanti, perché oggi sono intervenuti da un lato la Presidente di Confindustria Anna Marcegaglia, dall'altro il Presidente dell'ABI Corrado Faissola. Anche in questo caso le posizioni restano così dialettiche nel sostegno che le banche stanno dando al settore delle piccole e medie imprese. Lo scudo fiscale. Allora, che cosa è successo? Da martedì scorso fino al 15 dicembre 2009 è operativo lo scudo fiscale terzo, che permette di regolarizzare i capitali illecitamente detenuti o esportati all'estero prima del 31 dicembre. Si paga un'imposta pari al 5% del capitale che si fa rientrare. Lo scudo non si applica, però, lo dico anche a chi scrive, solo a denaro o attività finanziarie, ma anche gli immobili, gli yacht e le opere d'arte. Nell'operazione di rientro è garantito l'anonimato. Allora, il gettito atteso è più o meno di 3-4 miliardi di euro. Nella versione originaria la copertura giudiziaria, quindi lo scudo giudiziario, riguardava solo il reato di omessa o falsa dichiarazione. Tutti gli altri reati collegati al riciclaggio, inclusi nel riciclaggio, non venivano tutelati. Con un emendamento del senatore Fleres sono stati introdotti, della Popolo della Libertà, sono stati introdotti invece introdotte le coperture, quindi la non punibilità di altri reati tributari e penali, come il falso in bilancio, la distruzione di scritture contabili, il rilascio di false fatturazioni. Inoltre, gli intermediari professionisti saranno esentati dall'obbligo di segnalare le operazioni sospettate di riciclaggio. È invece scomparsa una parte dell'emendamento di Fleres, quella che è stato reintrodotto l'obbligo di non far valere lo scudo per chi avesse procedimenti in corso, perché nella versione originaria c'era anche quello. Volete sapere da giorni come funziona lo scudo fiscale degli altri paesi? Allora, in Francia si paga il 20% della somma rimpatriata, non il 5%. E non è previsto l'anonimato, cioè se le vuoi far rientrare questi soldi devi dire chi sei. In Gran Bretagna si paga il 44% e non è previsto l'anonimato. In Gran Bretagna si paga il 50%, scusatemi, in America si paga il 50% della somma e anche in questo caso non è previsto l'anonimato. Ancora, volete sapere quanto ammontano complessivamente i capitali che dovrebbero rientrare se il gettito è tra i 3 e i 4 miliardi? Beh, a spanne, insomma, visto che è il 5% l'imposta che uno paga e lo Stato si attende che il 5% equivalga a 3-4 miliardi, non ci vuole un genio per capire che si attende che almeno 60 miliardi di euro illecitamente portati all'estero rientrino nel nostro paese. Questo però include anche appunto beni come barche, yacht e quant'altro. La discussione politica, ed è l'ultima notizia in breve che abbiamo per voi, poi passiamo al primo tema, discussione politica. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha detto: valuterò il testo, non voglio commentarlo adesso, quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, quello approvato dal Parlamento, valuterò le eventuali novità. Quindi si è dato ampia riserva di intervenire il Presidente della Repubblica, mentre il senatore della PDL, Salvo Fleres, firmatario dell'emendamento molto criticato perché allargava le tutele, la possibilità di far entrare capitali a diversi soggetti e le tutele legali, così è intervenuto proprio sulle modifiche da lui introdotte sullo scudo fiscale. Quello che voteremo è un provvedimento straordinario, è un provvedimento scomodo ma necessario. Lo facciamo perché il nostro non è un comportamento ipocrita, il nostro è un comportamento realistico, in linea con quello che sta accadendo sul piano internazionale. Invece su questi temi serve per ripartire da zero, evitando che il fenomeno si ripeta. Ci auguriamo che questo azzeramento ci sia, ci auguriamo che i capitali rientrino, che le somme vengano investite nella nostra economia e che questo, per così dire, sacrificio politico, perché tale è un provvedimento di questo tipo, raggiunga i risultati auspicati. Dunque, e concludo, onorevoli senatori, voteremo sì contro il mantenimento di tanti e inutili equivoci. È di diverso avviso, per essere buoni, l'opposizione. Il senatore del PD Giovanni Legnini ha annunciato invece la scelta del suo partito, cosa che poi è avvenuta, di non partecipare alla votazione. Il PD, tutti gli esponenti del PD sono usciti dall'aula spiegandole le ragioni. Le sole risorse disponibili saranno quindi quelle che i furbi con un robusto premio metteranno, se ciò avverrà, a disposizione dello Stato. Così si spiega l'anticipo della scadenza al 15 dicembre e l'indulto agli evasori e ai falsificatori di bilanci e di fatture. Questa è la verità, signori del Governo, e della maggioranza. Il combinato disposto delle misure del decreto corretto e di quello correttivo connotano la politica economica del governo più di molte chiacchiere e proclami. Il Parlamento è svilito, la Costituzione viene continuamente forzata, la politica economica del governo ripercorre vecchie strade, i condoni per tappare i buchi del bilancio pubblico. Anche per questi motivi la nostra valutazione su questo decreto è di forte contrarietà per le ragioni che sono state ampiamente espresse, per evidenziare la nostra indignazione per il metodo e per il merito del provvedimento, confermiamo la nostra decisione di non partecipare al voto. Mi sa che ne riparleremo di questo scudo fiscale, appunto perché sarà importante capire cosa farà il Presidente della Repubblica, che si è riservato di leggere e di valutare il testo modificato dal Parlamento. Visto che parliamo di fisco, ancora due dati: la pressione fiscale si attesterà quest'anno al 43% e scenderà al 42,5% l'anno prossimo, lo si legge nella relazione previsionale programmatica, quella di ieri, quella utilizzata per la legge finanziaria. Nel 2008 la pressione fiscale era pari al 42,8%, quest'anno salirà al 43% per poi scendere l'anno prossimo al 42,5%. Nel 2010 la disoccupazione dovrebbe toccare l'8,8% contro l'8,5% di quest'anno. Ricordo che nel 2008 il tasso di disoccupazione era il 6,7%, quindi 2 punti percentuali in più di disoccupati. Il che ci introduce a un altro tema. Nella finanziaria è stato erogato 1,7 miliardi per il contratto degli statali, un aumento di 20 euro a regime. Molti parlano di statali, giustamente, di categorie di lavoratori del settore privato, degli operai, che insomma 200.000 lavoratori del settore industria in meno nel secondo trimestre dell'anno. Ci si dimentica spesso di una categoria che viene considerata, a mio avviso, in maniera un po' frettolosa, fatta di soli ricchi. Mi riferisco alle libere professioni: avvocati, procuratori, architetti, geometri, insomma tutti coloro i quali vengono considerati detentori di grandi redditi. In realtà non è sempre così, e soprattutto la crisi sta riducendo e contraendo anche il mondo del lavoro in quelle categorie, che, lo ricordo, è inutile che alcuni operai o dipendenti si arrabbino, è verissimo. Insomma, la cassa integrazione esiste per chi lavora in fabbrica, per chi lavora in una piccola impresa artigiana, in cassa in deroga. Gli ammortizzatori sociali non esistono per le libere professioni, non ci sono, a meno che non siano previste, come nel caso dei giornalisti o di altre categorie, dal contratto nazionale sotto forma di sussidio di disoccupazione. E poi anche gli stipendi. Allora, per sfatare alcuni miti e capire che cosa chiede il mondo delle libere professioni, ne parlammo a lungo, già qualche tassista sta scrivendo ai tempi del decreto Bersani. Io ripeto, tranne che per i taxi, forse tutto il resto del decreto Bersani a noi piaceva, metteva in concorrenza i giovani avvocati dandogli la possibilità di non avere il minimo tariffario o di farsi pubblicità, metteva in concorrenza gli angoli, diciamo, delle farmacie dentro le grandi catene con le farmacie in cui però il figlio del farmacista, anche se non è laureato in farmacia, può per 5 anni essere titolare della farmacia. Insomma, un po' di concorrenza secondo noi non fa male, vale anche per i notai, vale per tutti. Ecco perché non abbiamo problema a difendere in questo caso le categorie delle cosiddette libere professioni. Avvocato Gaetano Romano, presidente dell'Unione Giovani Avvocati Italiani, buonasera. Buonasera. Della sua unione fanno parte anche i praticanti, quelli, certo, che appunto devono diventare ancora avvocato, e architetto Luca Paschini, presidente del coordinamento dei giovani architetti, se ho ben capito. Buonasera anche a lei. Buonasera. Nazionale dei Giovani Architetti. Allora, in questo paese ci sono 137.000 avvocati e procuratori iscritti all'albo, dati del 2008, e 133.000 architetti. Voi direte, saranno troppi, ho capito, ma ci sono. E, tra l'altro, negli avvocati il 40% sono donne, è una cifra molto alta, anche si riscontra tra gli architetti. Allora, che cosa state osservando, avvocato Romano, nei vostri iscritti? Se ci può anche dire qual è la media di guadagno di un praticante, di un giovane avvocato, così vediamo di capire di chi stiamo parlando. Guardi, intanto la crisi secondo noi non poteva non incidere sulle professioni intellettuali. Il problema è che il sistema diciamo dei servizi professionali non è preparato a fronteggiarlo, come invece lo può essere il sistema delle piccole e medie imprese, perché per diciamo accezione comunitaria gli studi professionali sono imprese, tuttavia non possono usufruire delle agevolazioni, delle protezioni che vengono date alle imprese. Quindi il problema di base è questo. Per quanto riguarda il guadagno, è difficile da individuare, innanzitutto perché il praticante avvocato nella maggior parte dei casi non ha una sua autonomia, perché non può patrocinare in giudizio se non in determinati casi sporadici e dopo un anno di pratica. Il giovane avvocato dipende se lavora in proprio o lavora presso uno studio professionale. Io non ho dati precisi, sarei orientato a indicare una media, non so, annuale di 7.000 euro, 8.000 euro, non è molto alta. Cioè lei ci sta dicendo che si viaggia su stipendi per i praticanti, i giovani avvocati che arrivano a fatica ai 1.000 euro al mese? Eh? Stiamo parlando di media. Sì, di media, eh beh, certo. Però, ripeto, non sono dati che io posso confermare, è una mia... è per capire una cosa, nel senso che... Allora, anche qui vediamo di capirci. Sappiamo tutti, le abbiamo lette in onda, le dichiarazioni dei redditi delle categorie professionali che fanno ridere, perché praticamente la maggior parte dei liberi professionisti dichiara meno dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, meno di 18.000 euro, e fanno ridere alcune categorie in particolare, abbiamo fatto nomi e cognomi. Però, una volta appurato questo, non si può dire che il giovane avvocato, il praticante, sia un ricco e quindi se perde il lavoro... chi se ne frega, al di là degli studi e dell'investimento che ha fatto anche la famiglia molte volte, cioè 800 euro, 700 euro, 1000 euro al mese non mi sembrano stipendi così da favola. E vorrei girare la stessa domanda anche al presidente del coordinamento dei giovani architetti, Luca Paschini, e poi vedrà anche che cosa chiedete, perché immagino che non si possa ipotizzare la cassa integrazione per le categorie, per gli ordini professionali. Prego. Sì, guardi, anche dal punto di vista della professione dell'architetto bisogna dire che su dei dati oggettivi, sulle statistiche rilevate, l'architetto giovane, quindi sotto i 45 anni, e già questo è un dato un po' difficile da interpretare, comunque ha una media nazionale di guadagno lordo annuale di 20.000 euro. Ecco, se da questo deve togliere le tasse, deve togliere altre spese che ci sono, le cifre di cui parlava prima sono cifre realistiche anche nella nostra professione. Questo è un piccolo dramma. Quindi dai 500 agli 800 euro, di questo stiamo parlando? Questa è una cifra media su cui si attestano, diciamo, i costi, cioè i guadagni, diciamo, di un professionista che inizia la propria carriera. Sicuramente magari salgono sui 1.400-1.500 euro dopo qualche anno di professione, però sono comunque delle cifre che, paragonate magari ad esempio a un guadagno di un operaio, sono sicuramente inferiori, perché ad oggi un operaio in impresa edile guadagna cifre mensili maggiori di 1.400-1.400 euro. Sì, e poi comunque eviterei la guerra tra poveri, nel senso che non è che l'operaio, il muratore in questo momento mi sembra la categoria a cui fare il raffronto. Il problema è un altro, a mio avviso, è che per fortuna questa crisi in Italia ha creato meno danni per ora al tessuto sociale, perché esistevano degli strumenti automatici, la cassa integrazione, per essere ancora più chiari, i contratti di solidarietà in alcuni casi, che sono scattati subito, quindi non c'è stato nessun bisogno di una legge, di un decreto legge, di nulla, e questo ha fatto tenere, diciamo, il fronte occupazionale. Non esistono questi strumenti per voi. Allora lì, due possibilità, la risposta la vorrei dopo il metodo della pubblicità. O chiedete ai vostri ordini professionali, visto che vi imponevano la tariffa minima, hanno tutto un percorso di esclusione, si sono opposti a quel poco di concorrenza che ha introdotto il decreto Bersani, o chiedete che anche lì i vari avvocati di prestigio, di blasone e architetti mettano soldi, per parlare chiaramente, nelle quote associative, in modo da avere un fondo di garanzia che vi tuteli nel caso voi perdiate il lavoro, oppure vorrei capire quale altra soluzione proponete. ...17:38 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco commentiamo la borsa che ha chiuso con un più 0,7%. Milano ha fatto eccezioni, infatti tutte le altre borse europee o hanno perso lo 0,2 o hanno chiuso invariate. Vorrei concludere il tema delle libere professioni chiedendo però ad alcuni ascoltatori anche un po' di così pazienza, perché non è possibile che dopo mesi e mesi che facciamo puntate parlando del pubblico impiego, dei contratti che devono essere rinnovati, dei lavoratori del settore privato che rischiano di perdere il lavoro, della cassa integrazione, delle risorse disponibili, se per una volta parliamo dei giovani avvocati e praticanti, dei giovani architetti, si debba sentire adesso, ma chi le volete, leggo i messaggi a caso, diciamo, chi state raccontando favole, chi può credere che un architetto guadagni 1.000 euro al mese, quando è che inviterete anche i notai e i dentisti per chiedere la cassa integrazione? Adesso a me fa sorridere, ma il tema è un altro, gli architetti e gli avvocati, visto che queste sono le due categorie che abbiamo preso oggi, non sono solo quelli miliardari che finiscono sulle pagine dei giornali, vogliamo accettarlo o no? Su 130.000 ce ne sono decine di migliaia che non sono ricche, ma soprattutto i giovani non sono in queste condizioni. Per fortuna arrivano molti messaggi di conferma di praticanti che non vengono spesso nemmeno pagati, e sia come, diciamo, sia nel fronte architettura che in quello degli avvocati. Comunque vorrei sapere le soluzioni. Avvocato Gaetano Romano, chiedere agli iscritti un fondo. Sì. Prego. Prego, prego. Consente, partirei dalla soluzione che sta dando il governo. C'è una riforma forense pendente in Commissione Giustizia al Senato. La soluzione per il governo è quella di cancellare gli avvocati che secondo gli ordini non esercitano la professione con continuità. Per me e per tutti i giovani avvocati questa è un'aberrazione più che giuridica, culturale. E comprende, è come se un imprenditore scegliesse di cancellare un altro imprenditore perché guadagna meno o fattura meno. Quindi questa è la soluzione del governo. La nostra soluzione è completamente diversa, è quella di estendere ciò che già è stato previsto in Spagna. In Spagna dal 2006 è obbligatorio per lo studio professionale far partire un contratto col dipendente, quindi garantendogli TFR, indennizzo e assegno di disoccupazione. Questo in particolare. In linea più generale, noi da 2 anni rappresentiamo una nostra idea, che è quella di far permettere ai giovani professionisti, ma a tutti gli studi professionali, di poter aderire alle grandi confederazioni imprenditoriali, in modo tale da poter godere delle protezioni e delle agevolazioni che sono previste per le PMI. Ma per esempio Confesercenti, Confcommercio? Ma direi Confindustria, le grandi confederazioni imprenditoriali, poi non mi faccio entrare nel merito. Quindi voi dite in questo modo saremo più tutelati. È molto importante un passaggio di quello che lei ricordava, e cioè che spesso l'uomo è lupo dell'uomo stesso. Sono i vostri, sono gli stessi avvocati grandi che sfruttano, tra virgolette, l'avvocato giovane, pagandolo o sottopagandolo, e lì sì, si può urlare allo scandalo, perché i 7,40 quando sono veri di certi avvocati, architetti e altre categorie di liberi professionisti sono 7,40 importanti. Però avvocato Romano, lei sarebbe dell'idea di creare un fondo di garanzia vista la situazione dentro il vostro ordine, cioè un ordine che comunque rappresenta una barriera, a meno abbia il vantaggio di darvi un fondo di garanzia per chi resta espulso, per chi viene espulso, no? Assolutamente d'accordo. Così pagano anche gli avvocati affermati. Architetto Luca Paschini. Ma guardi, io mi trovo d'accordo con l'ipotesi dell'avvocato Romano. Ad esempio, in Austria, prima di poter accedere alla professione, un praticante deve fare 3 anni di lavoro presso uno studio professionale, di cui 2 deve dimostrare di essere stato impiegato. Quindi c'è una struttura che anche obbliga a sviluppare un certo rapporto di lavoro con gli studi più grossi. Per quanto riguarda il fondo di garanzia, le dico con qualche perplessità, perché sarebbe un po' difficile riuscire a valutare oggettivamente se un libero professionista, che poi alla fine è un imprenditore di se stesso, non lavora per, diciamo, incapacità personale o per dei problemi oggettivi esterni, e questa valutazione sarebbe difficile da poter sviluppare in maniera seria. Invece potrebbe essere importante un'azione di categoria portata avanti dall'ordine sia locale che dal Consiglio Nazionale degli Architetti, che supporti invece la figura professionale attraverso diverse forme, anche modificando alcune norme, alcune leggi uscite sia nel campo specifico del mondo delle costruzioni, mi riferisco per esempio alla legge sugli appalti pubblici, a altre normative di settore, sia anche nazionali, perché sebbene il decreto Bersani abbia migliorato in alcune direzioni lo sviluppo e la competitività del paese, ha fatto di tutto un'erba un fascio, nel senso che non è riuscito a differenziare delle esigenze notevolmente diverse e lontane tra categorie. Cioè è impossibile confrontare un avvocato con un dentista o con un architetto. Ci sono degli ambiti di lavoro, delle competenze, anche ma delle modalità di sviluppo della professione totalmente diverse. Quindi l'azione dell'ordine del Consiglio Nazionale potrebbe migliorare invece a livello proprio anche nazionale legislativo decisamente e aiutare a sostenere sia i giovani ma le categorie in sé. Sì, io dico una cosa, così si arrabbierà anche il mio di ordine, perché essendo un giornalista sono iscritto anch'io per obbligo a un ordine. Insomma, questi ordini professionali o servono anche a tutelare gli associati nei momenti di crisi, appunto fondi di garanzia, riqualificazione, o se no, voglio dire, almeno altre categorie, non so, i lavoratori hanno i sindacati, hanno una tutela sindacale, l'impresa può cercare attraverso la Confindustria, oppure se è un artigiano, la Confartigianato, la Confesercenti, sono commercianti, di avere una forma di pressione, di richiesta al governo. Gli ordini professionali intervengono solo per le censure, le sanzioni, le radiazioni, per spiegare che se non hai quella cosa lì non ti puoi chiamare architetto, non ti puoi chiamare avvocato, non ti puoi chiamare in altri modi. Una risposta a un ascoltatore che dice: non parlate dei medici, avete ragione, però attenzione, nella maggior parte dei casi, per carità, non in tutti, il medico è un dipendente o di un'amministrazione locale o dell'università, quindi di un ministero. È un po' diverso il caso, diciamo, di chi fa la libera professione. Noi oggi vogliamo occuparci dei liberi professionisti, come si chiamano in gergo. Grazie al presidente dei Giovani Avvocati Italiani Gaetano Romano, grazie al presidente del coordinamento dei Giovani Architetti Nazionali Luca Paschini. Di nuovo in diretta per commentare la borsa, ormai il tema sulle libere professioni, soprattutto su chi ne rischia l'espulsione. Attenzione, giovani e anche donne, purtroppo le due categorie che abbiamo invitato oggi, così come rappresentanze dei liberi professionisti, vedono un alto tasso di componente femminile, e sappiamo, perché ce l'ha detto l'Istat, ce l'hanno detto tutti i rapporti finora arrivati, che la disoccupazione in aumento sta colpendo giovani, donne e contratti, diciamo, non strutturati, non di assunzione a tempo pieno. La borsa oggi va meglio di il resto d'Europa, Milano più 0,7%. Mentre il resto d'Europa fa meno 0,1% a Francoforte, invariata Parigi, Londra meno 0,15%, l'America invariata. Poco mossa quindi oggi l'Europa, euro quota 1,4743, netto il recupero per Unicredit che ieri aveva perso il 3,5% sull'ipotesi di un aumento di capitale, oggi lo guadagna il 3,5%, non riguadagna tutto chiaramente, però va a 2,55€, Mediolanum più 3,7 a 4,57€, Intesa San Paolo più 2,5 supera i 3€ per azione, 3,1€ per azione, UbiBanca più 2,4 e Parmalat più 2,2, Fondiaria più 1,2, Alleanza più 1%, Generali più 0,80. E allora, come sempre, Radio Cori, Sole 24 Ore, oggi nella persona, nella voce di Eleonora Micheli. Buonasera, Eleonora. Buonasera a tutti. Tutto in recupero del settore bancario, mi sembra che le eccezioni siano praticamente pochissime. Vedo solo il Monte dei Paschi meno 0,5%. Esatto, infatti solo il Monte dei Paschi si è mosso in controtendenza, ieri era andato bene e soprattutto ha recuperato, come hai già notato tu, Unicredit, ha recuperato quasi tutto quello che aveva perso ieri. Il mercato è molto attendista, ci saranno novità probabilmente il prossimo 29 settembre quando si riunirà il consiglio di amministrazione. Intanto ci si interroga ovviamente su quello che possa accadere. Ieri era dato, diciamo, saranno date maggiori probabilità alla eventualità che la banca possa varare un aumento di capitale fino a 4 miliardi. Oggi praticamente sul piatto si inizia a discutere sul fatto che effettivamente ci siano più opportunità dall'emissione appunto dei cosiddetti Tremonti Bond, eventualmente un mix di soluzioni, Tremonti Bond, aumento di capitale, c'è chi non esclude anche l'eventualità di strumenti ibridi. Comunque non è più certo il fatto che non è mai stato certo, ma diciamo è meno probabile il fatto che sia fatta un'operazione di aumento di capitale e così il titolo ha recuperato. Beh, diciamo sì, io starei cauto, nel senso che non era certo ieri che la facesse, non è certo oggi che non la faccia. Quindi palla al centro, 1-1 e infatti il titolo recupera. Andiamo avanti con gli altri settori. Oggi debole tutta l'Europa sulle auto, ma qui siamo sempre al, così, alla vicenda degli incentivi. Fiat meno 1,6%, 8,70 euro. Mediolanum. Sì, Mediolanum, guarda, va detto che è diciamo un movimento un po' corale di tutto il comparto assicurativo. Oggi si sono mosse bene infatti tutte le azioni assicurative europee, il sottoindice ha vantato una delle migliori performance, più 0,86% sul finale. In Italia si sono mosse appunto soprattutto le Mediolanum, comunque una società di gestione che fa anche assicurazione. Poi sono andate bene peraltro anche le Generali, più 0,8%, Alleanza Assicurazione più 1% e soprattutto Unipol, che si era peraltro già mossa ieri anche sulla scorta di un giudizio positivo di JP Morgan. Ancora sui titoli, parliamo di titoli un po' più sottili oggi, anche se ci sono alcuni ascoltatori che sono infervorati su Prysmian. E vabbè, Prysmian ha fatto più 0,1, tranquilli, c'è anche altro nella vita, non è successo niente su Prysmian, più 13 euro per azione. Andiamo tra i migliori e peggiori invece, in assoluto il peggiore è Seat Pagine Gialle sulle ordinarie, questa volta meno 6,5, Marcolin pure male meno 5%, e vorrei che tu mi citassi sia Marcolin che Seat Pagine Gialle. Non vedo tra i migliori soprattutto tra i peggiori Safilo. Se ci puoi dare la variazione percentuale, perché chiaramente quello si collega. Prego. Allora, per quanto riguarda Safilo, diciamo che durante della seduta erano scattate le prese di beneficio e le azioni andavano su. Proprio sul finale hanno recuperato, hanno chiuso in progresso dello 0,16%. Ricordiamo ieri che hanno fatto un exploit di oltre il 20%, trainando dietro anche Marcolin, dopo la notizia che Diego Della Valle, che possiede già personalmente il 20%, insieme al fratello il 40% di Marcolin, e comunque appartiene a un patto di sindacato che diciamo controlla la maggioranza della società. Si inizia a ipotizzare una probabile operazione di fusione tra Marcolin e Safilo. È stato chiesto poco fa peraltro anche a Passera, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, che è una delle banche maggiormente esposte nei confronti di Safilo, ha detto che tutto starà agli imprenditori decidere. Per quanto riguarda invece Seat Pagine Gialle, meno 6,5%, diciamo che le azioni avevano corso molto nelle ultime settimane, da inizio settembre. Ieri hanno registrato un progresso attorno al 46%, oggi sono scattate le prese di beneficio sulla scia peraltro della debolezza accusata dalla concorrente di Oltremanica, IEL, che ha appunto annunciato un'operazione di aumento di capitale da 500 milioni di sterline. Sì. E quindi ha accusato un colpo di oltre il 10-12%. Eh sì, quindi è britannico il motivo del calo di Seat Pagine Gialle, meno 6,56%, peggior titolo oggi a Piazza Affari, grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Parleremo dopo, nella seconda ora, del rapporto banca-impresa, del piano di Obama per il vertice dei G20 e ascolteremo la testimonianza di un altro imprenditore. Leggo però un messaggio prima di concludere sul tema con cui abbiamo aperto, quindi i giovani liberi professionisti che rischiano di essere decimati da questa crisi senza nessuna tutela. Se un giovane praticante lavora in un importante studio a 700 euro al mese, di aberrante c'è solo il suo datore di lavoro. Avete ragione, il problema nostro era capire anche quali siano le tutele, perché attenzione, se poi migliaia e migliaia di architetti, avvocati e quant'altro dovessero rinunciare alla professione. Cioè, questo vuol dire che in sostanza resteranno a fare gli architetti, i medici, gli avvocati, solo i figli di architetti, i figli di medici e i figli di avvocati. Le 18:09 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia e in attesa, come dicevamo in apertura del programma, che domani inizi il vertice dei G20 a Pittsburgh, che dovrà occuparsi delle regole, del rispetto delle regole, di chi deve fare anche rispettare, delle sanzioni, soprattutto in particolare per il mondo della finanza. Oggi restiamo ancora una volta sul tema del rapporto tra banche e imprese, sia perché abbiamo un'intervista con uno degli imprenditori che stiamo sentendo in queste settimane per capire, visto che siete tutti nella stessa barca, che cosa fare, e sia perché ne hanno parlato oggi anche i due principali esponenti di questi due mondi, quindi la Presidente di Confindustria Marcegaglia e il Presidente dell'ABI Corrado Faissona. Eh sì, perché dopo il rapporto di Bruxelles che ha mostrato come per i clienti delle banche l'Italia sia il paese dove il conto corrente è più caro, oggi di banca e impresa si è parlato alla Commissione Attività Produttive della Camera. Due infatti gli interventi, quello di Corrado Faissola, presidente dell'ABI, il quale ha negato che in Italia vi sia una stretta creditizia, quindi che le banche in sostanza si mettano a erogare meno credito rispetto al passato. Ritengo che non sia un termine appropriato parlare di credit crunch in Italia, ma anche in Europa. Noi siamo un po' meglio delle banche europee, ma le banche europee, soprattutto in quei paesi che hanno una struttura come la nostra, più o meno hanno mantenuto le stesse grandezze. Con una differenza però, che mentre le banche italiane hanno il 64% di crediti nei confronti delle piccole e medie imprese, le banche degli altri paesi hanno molto di meno come quota del loro attivo. Oggi abbiamo una situazione in cui i finanziamenti alle imprese sono 1.332 milioni, con una crescita in cifra assoluta di 30 miliardi rispetto ad un anno fa. Ecco, è una situazione in cui da un punto di vista scientifico gli impieghi avrebbero dovuto scendere anche di parecchio. Questa è la posizione delle banche italiane. Per quello che riguarda la Confindustria, Emma Marcegaglia ha chiesto una maggiore elasticità dei coefficienti patrimoniali richiesti alle banche, che si deve tradurre anche in liquidità per le piccole e medie imprese. Quindi maggiore elasticità in quelli che sono i coefficienti tier patrimoniali delle banche, ma anche una maggiore elasticità nell'erogare credito, superando, visto la situazione, i vincoli posti in maniera un po' meccanicistica da Basilea 2. Ascoltiamo la Presidente Confindustria al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, a margine appunto del suo intervento alla Commissione Attività Produttive della Camera. Ma oggi abbiamo parlato di Basilea 2, noi abbiamo detto che è importante rinegoziare, cambiare Basilea 2, ma siccome questo richiede molto tempo, nell'immediato noi chiediamo un allentamento dei criteri per dare credito in base a Basilea 2. Questo aiuterebbe molto le piccole e medie imprese, chiediamo che questa operazione venga fatta nello specifico per le piccole e medie imprese, perché il tema della restrizione del credito rimane ancora uno dei grandi temi su cui lavorare ed è uno dei temi che rende sofferenti le piccole e medie imprese. E nel frattempo, mentre l'ABI dice che non c'è stretta del credito, e invece la Presidente Confindustria, avete sentito, sostiene che proprio sulle piccole e medie imprese vi sia un problema di erogazione creditizia, gli imprenditori vanno in fila dallo psicologo. La Camera di Commercio di Monza e Brianza, seguendo in qualche modo quello che è successo in Francia nei giorni scorsi, dove France Telecom, dopo un'ondata di suicidi, ha bloccato tutto il piano di ristrutturazione. Beh, dicevo, la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha messo uno psicologo a disposizione dei capitani di impresa o degli imprenditori in senso lato, dopo i due casi di suicidio dell'estate scorsa: un artigiano del legno di Nova Milanese e un piccolo imprenditore attivo nel settore delle slot machine. Le paure più frequenti: non poter più garantire il futuro ai dipendenti, non essere all'altezza del padre da cui spesso si è ereditata l'azienda, ansia da colloquio con i direttori di banca. Questa è forse anche una nuova tipologia a livello di psicanalisi. e in una settimana 24 imprenditori hanno già chiesto aiuto allo psicologo messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza. Le richieste di consulenza continuano ad aumentare al ritmo di 5 al giorno. Ieri, nel frattempo, noi vi abbiamo raccontato la storia di un imprenditore che ha comprato uno spazio pubblicitario per chiedere 100.000 euro di prestito d'onore. Cercasi persone generose di cuore per un prestito di onore di 100.000 euro perché aveva 1 milione di euro di crediti che non gli stavano rientrando. Si chiama Antonio Mangone, il suo appello lo volete ascoltare? Vi facciamo ascoltare l'ultimo passaggio dell'intervista che abbiamo fatto ieri. Basta dare i soldi alle banche, datele alle imprese, basta, non c'è più bisogno di avere l'intermediario delle banche, perché le banche hanno già fatto abbastanza danni, dovrebbero essere loro a chiedere scusa, a dirci eccovi i soldi, li meritate, eccoli, e invece no, dobbiamo pregarli, dobbiamo metterci in ginocchio, non ne posso più, io ho la mia dignità. Di nuovo in diretta, allora continua il nostro viaggio in cui stiamo chiedendo ormai da settimane a imprenditori di successo che hanno gestito, stanno gestendo aziende importanti, consigli anche pratici a altri imprenditori, artigiani, commercianti in ascolto, con l'idea che questa crisi sia una barca dove tutti sono dentro, non ci sono tanto sommersi o salvati. Dopo Nerio Alessandri, cito gli ultimi, fondatore di Tecnogym, Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin OVS, e oggi la volta dell'ingegnere Alessandro Calligaris, che oltre che essere presidente della Confindustria Friuli Venezia Giulia è soprattutto il presidente del gruppo Calligaris. Buonasera. Buonasera a lei. Gruppo Calligaris, lo dico per chi non lo sapesse, significa sedie, opera nel distretto della sedia d'Italia, Manzano in Friuli, e significa 160 milioni di fatturato, quasi 800 dipendenti, 5 stabilimenti di cui uno in Croazia, 7.000 prodotti in catalogo e 12.000 punti vendita in un distretto come quello di Manzano, che è un distretto simbolo delle difficoltà di questo periodo: cali nell'export del 50%, cali nella produzione del fatturato intorno al 30%. Allora, prima domanda che abbiamo fatto a tutti: ci può dire che lei la crisi la sente meno perché il marchio è forte, perché avete diversificato, perché avete diversi canali per vendere? Ma indubbiamente la crisi coinvolge tutto il sistema economico di qualsiasi settore ed il nostro anche in particolare. Questa per noi è la terza crisi ed è quella, diciamo, anche più forte, come perché coinvolge tutti. La prima crisi è nata, diciamo, alla fine degli anni 90 con la grande competizione dei paesi sia dell'est europeo che erano usciti praticamente dal sistema di conduzione socialista, ma anche e soprattutto dei paesi asiatici quale la Cina. Una seconda crisi, io la identifico per il nostro territorio, una crisi di identità, dovuta a far sì che, essendo noi produttori di un monoprodotto che è la sedia e soprattutto di un monomateriale che è il legno, praticamente siamo stati travolti da una richiesta di mercato, una richiesta del mercato diversa, ossia il mercato è cominciato a chiedere prodotti in metallo, in plastica, cioè con materiali diversi, e quindi il territorio non era preparato a questo tipo di tecnologia, perché tutti hanno sempre lavorato il legno e tutti sono grandi conoscitori del legno. La terza crisi è quella attuale, quella che sta coinvolgendo tutti, e che è la crisi economica che tutti ormai conosciamo in maniera molto aperta. Qui sul territorio, come anche in molti distretti italiani, credo che ci sia stata molta attenzione a produrre bene, a essere qualificati nella gestione industriale dell'azienda. Ecco, a questo volevo arrivare, infatti, perché fermo restando che voi la soffrite, diciamo, come tutto il distretto, però quando uno è un grande gruppo, in questo caso voi lo siete nel settore della sedia, e ha un marchio molto conosciuto, di solito riesce anche ad avere strategie un po' più aggressive. Vorrei capire come state rispondendo a questa difficoltà, visto che lei ci ricordava che c'è anche un problema strutturale del distretto della sedia di Di Manzano, ossia troppo monomandatari, troppe, diciamo, sì. Una rete monoprodotto, monoprodotto, esatto. Ma la Caligari, diciamo, fortunatamente il nostro gruppo ha avuto un'attenzione già nata, diciamo, all'inizio degli anni 90, dove ci siamo resi conto che la Siria non bastava a gestire il nostro mercato, dovevamo probabilmente associarla a qualche altro prodotto d'arredamento. Il primo prodotto è stato il tavolo, che è probabilmente è la combine adeguata dove probabilmente la sedia si sposa per stare insieme. Dopodiché abbiamo iniziato appunto con il mobile e con l'imbottito, con l'illuminazione e anche, diciamo, con l'oggettistica, affinché poi, proprio per essere presenti in maniera corretta, diciamo, all'interno del punto vendita, dare un'identità di azienda di arredamento. Quindi questo è quello che abbiamo fatto ed è questo praticamente che ci ha dato possibilità di essere propositivi verso il mercato, ma soprattutto di poter essere verso i nostri clienti un'azienda di riferimento. Ma quindi intanto poi, diversificare il prodotto. Sì, ma poi c'è un altro aspetto, che è quello appunto a cui mi riferivo prima. Noi abbiamo sempre lavorato, anche noi, diciamo, come tutti anche gli altri imprenditori qui del territorio, avendo una grande attenzione al sistema produttivo, quindi a produrre con qualità, con bassi costi e quant'altro. Ma questo, diciamo, non basta. Bisogna presidiare i mercati. Ecco, il presidio dei mercati io credo che sia la parte, diciamo, principale per ogni azienda. Ogni azienda deve essere veramente gestrice dei mercati dove doveva vendere. Nel passato noi imprenditori, anche noi come Caligaris, ritenevamo che vendere all'estero bastasse probabilmente andare a visitare dei clienti, degli importatori, prendere l'ordine importante, vendere il container e poi probabilmente dimenticarsi. Invece no, non è così. Io credo che per avere possibilità di avere futuro bisogna gestire il mercato. Gestire il mercato significa appunto presidiare quel mercato con una struttura di vendita sul territorio, con dei listini possibilmente con le monete del territorio, con un customer service che è sul territorio, affinché appunto l'azienda non sia praticamente un'azienda italiana sì, ma anche praticamente identificata come un'azienda che ha praticamente una struttura di servizio con un customer care appunto sul territorio dove va a vendere. E qui è il grande vantaggio. Qui ritroviamo alcuni degli elementi già presenti nell'intervista con Nerio Alessandri e Stefano Beraldo. Cioè, Alessandri diceva: noi abbiamo lavorato proprio per affrontare la crisi molto sulla rete commerciale e quindi sugli uomini. Beraldo diceva: noi abbiamo lavorato molto sull'offerta del cliente, come veniva percepito anche il prodotto e il marchio, e anche in questo caso abbiamo lavorato sulla rete di fornitori e sugli uomini. Lei ci sta dicendo: la nostra risposta è stata presidiare i mercati esteri con una struttura commerciale adeguata che non fosse un mordi e fuggi. Vorrei capire, anche qui la crisi, cioè anche per voi la crisi ha messo in evidenza l'importanza del fattore umano, cioè delle persone che ti scegli come collaboratori? Come no, io ho sempre detto ai miei colleghi e anche predico continuamente all'interno dell'azienda: l'azienda è una squadra. Quindi praticamente migliori sono i collaboratori, migliori praticamente sono le persone che coprono determinate funzioni, più l'azienda ha capacità e possibilità praticamente di mantenersi e di crescere sul mercato. Praticamente l'azienda è una squadra e quindi quando ci sono i giocatori validi credo praticamente che il gioco diventi più facile, ma soprattutto che possa permettere di far sì che l'azienda sia vincente. Ancora due domande. Il rapporto con le banche lo chiediamo a tutti, perché anche qui c'è la convinzione che quando tu sei grande e conosciuto le banche ti trattino meglio. Lei si ritiene un privilegiato nel rapporto con il mondo bancario rispetto ai suoi colleghi più piccoli, magari che fanno fornitori? Io fortunatamente ho condotto l'azienda negli anni passati cercando di autofinanziarmi e di mantenere praticamente un rapporto un po' staccato con le banche. Invece mi rendo conto proprio che negli ultimi anni invece che ho fatto dei passi diversi, perché ho fatto entrare anche dei soci, quindi di conseguenza questi soci dicono che hanno bisogno di remunerare giustamente il capitale nel modo giusto, forse io non lo facevo prima essendo diciamo l'unico socio della mia azienda. Oggi praticamente posso dire che le banche sono un po' birichine. E cioè? Ma uso questo termine nel dire che oggi le banche diciamo hanno uno spirito che non è quello praticamente di supportare specialmente in questo momento qui questa crisi, perché diciamo non vogliono rischiare. Giustamente diciamo le banche sono delle strutture private e anche lì diciamo ogni azionista penso che pretenda praticamente di avere alla fine anno praticamente il suo dividendo, ma credo che in questo momento qui le banche debbano sostenere il sistema economico, perché ad ogni azienda che muore significa perdere le possibilità di avere un futuro. Ma anche voi, come fanno altri, in sostanza vi sostituite alla banca con i fornitori, cioè accettate dilazioni nei pagamenti? Come no, difatti il grande problema per noi in questo momento qui è che io ogni giorno sono a contatto con il mio ufficio commerciale, perché diciamo abbiamo un sistema di controllo dei fidi praticamente a cascata, e praticamente oltre a un certo fido praticamente vengono a portarlo al presidente, fino alla fine del presidente. Io sono un altro giorno che firmo, praticamente diamo dei fidi aziendali, perché abbiamo l'assicurazione dei crediti che ci tagliano continuamente i fidi verso i clienti. Quindi mentre prima la situazione dei crediti le banche stesse praticamente erano molto aperte, adesso praticamente tagliano. Purtroppo, ingegnere, questa è una cosa che non scopriamo solo con lei, ma purtroppo è brutto riverificarla. Grazie, è finito il tempo a nostra disposizione. Grazie all'ingegnere Alessandro Caligaris, presidente del gruppo Caligaris. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata a voi in ascolto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.